Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ormai è tardi, nemmeno il tempo di rendersi conto e 100.000 goccioline sparate a 140-150 km orari si disperdono nell'aria come una specie di aerosol. È fatta. Basta uno starnuto, dicono i ricercatori, ben assestato però nell'ora e nell'ambiente giusti, per colpire almeno 150 persone. Allora, contate il numero di starnuti che avete fatto oggi, limitatevi però naturalmente a quelli che avete fatto nei luoghi giusti, sufficientemente affollati e ben chiusi, moltiplicate per 150 e proviamo a fare due conti insieme di quanti potenziali raffreddori possiamo sentirci responsabili oggi. 800 24 00 24, rido perché qua davanti a me c'è il dottor Andrea Franzetti, primario di otorinolaringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo e Albuzzi. Dottor Franzetti, perché ride? Perché questa è una stagione in cui lei lavora tanto. Certo, certo, è una stagione che ci porta a fare tanti starnuti, che però non devono mai spaventarci, anche se dobbiamo stare attenti, come si diceva prima, a non inquinare tutti quelli che abbiamo vicino. Perché ci sono starnuti e starnuti, certo. Non tutti sono contagiosi. Oggi impareremo a riconoscere la natura dei diversi starnuti, che solo all'apparenza sembrano uguali, perché può essere molto utile. Ma iniziamo dal raffreddore, da quello classico, proprio dell'inverno. Per evitarlo c'è chi fa scorta di vitamina C, chi si tira fuori la maglia della salute, chi invece va incontro al suo destino consolandosi all'idea che come viene passerà, intanto il raffreddore 3 o 4 giorni se ne va da solo. Dottor Franzetti. Certo, ma il raffreddore vuol dire tutto, vuol dire niente, nel senso che è una reazione della situazione nasale a una situazione ambientale o a una situazione virale, quindi già il raffreddore in sé può essere una patologia legata a un virus o semplicemente un raffreddamento. Il raffreddore, così come noi lo viviamo, con lo starnuto, col naso che cola, col naso che si chiude, è una situazione in cui il nostro naso tenta di difendersi e di attivare tutte quelle che sono le migliorie che può fare per cercare di proteggere tutto quello che sta dietro il naso nel nostro organismo, e quindi aumenta la secrezione del muco, insomma, del si naso, dà da fare, aumenta tutta la situazione di difesa, eccetera eccetera, certo. E lo starnuto fa parte di questi meccanismi, e qualcosa dentro il nostro naso succede. Certo, perché per esempio il nostro naso, che normalmente ha una fisiologia, nel senso ha un'attività che è legata a delle cellule ciliate che ci sono dentro il naso, che permettono determinati movimenti del muco, degli odori, dell'aria eccetera, a un certo punto si trova pieno di questo muco, che è quello che noi buttiamo fuori con le famose goccioline, e queste ciglia iniziano a funzionare di meno, fa sempre più fatica, e svengono, allora, svengono, e allora noi lo liberiamo. E queste ciglia non si trovano solo nel naso, dottor Franzetti? E no, questo è il quizzettone di oggi. Potremmo fare un bel quizzettone, perché potremmo dire che nel nostro organismo le ciglia, che hanno varie funzioni, ma in modo particolare quello di spostare le cose, sì, sono come dei trasportatori, si trovano in tante parti, non solo quelle che magari abbiamo sopra le palpebre, no? Sì, che sono quelle più vistose. E allora, oltre nel naso, possiamo dire che si trovano in 3 parti, e questo possiamo fare un quizzettone. Dai, allora. Allora, risposta numero A o numero 1, possiamo dire che si trovano nell'esofago. L'esofago è quella parte che collega la bocca con lo stomaco e che permette al cibo di andare su e giù, di solito. Quindi ci sarebbe in teoria bisogno di qualche cosa, qualcosa che spinge su e che spinge giù. La seconda risposta invece è nelle tube che collegano la zona delle ovaie con l'utero, perché ci permette di spingere l'ovulo della donna quando deve passare verso la tuba, quando deve essere impiantato per far nascere i bambini. Quindi ciglia nelle tube. Oppure può essere presente nelle arterie, nei vasi sanguigni, perché permette di velocizzare il circolo sanguigno, oltre che con la pulsazione del cuore, anche con dei movimenti sincroni. Queste ciglia dove saranno? Nelle pareti delle arterie, nelle tube o nell'esofago? 800 24 00 24, torna grande richiesta, sono molto contenta, da parte vostra, la guida al benessere, il libro che ho scritto insieme ad Alberto Pelai e a Paola Reverso, perché il benessere si impara giorno dopo giorno. Ma a proposito, dottor Franzetti, possiamo anche imparare a non diffondere tutte quelle goccioline quando starnutiamo, perché lo starnuto spesso è irrefrenabile e ci sono degli starnuti molto rumorosi, ci sono delle persone proprio che fanno degli ecciù, quasi un atto liberatorio, però non sempre si ha il fazzoletto a portata di mano. Certo. Però noi siamo naturalmente attrezzati. Secondo una ricerca neozelandese, 3 persone su 4 si trasformano in inconsapevoli untori quando starnutiscono e tossiscono. Non è questione soltanto di buone maniere, avvertono i ricercatori della Otago University. Imparare a coprirsi la bocca e il naso con il gomito piegato e non con la mano è una misura di salute pubblica che solo il 5% sa eseguire correttamente. Gli studiosi hanno esaminato il comportamento della popolazione in situazioni quotidiane, come una stazione ferroviaria, un ospedale e un centro commerciale, e hanno scoperto che pochissimi sanno che usare le mani per frenare un colpo di tosse o uno starnuto espone al rischio di trasmettere germi e virus con una semplice stretta di mano. Bene, che ne dite? Questo è il solo caso in cui alzare il gomito diventa salutare, dottor Franzetti. Certo, perché a volte magari viene spontaneo mettere la mano davanti al naso o alla bocca, ma poi la mano magari scivola sull'occhio, per cui se c'è un fatto virale può comportare un inquinamento della congiuntiva e delle lacrime, oppure poi la mano uno non la pulisce e per cui tocca di qui, tocca di là. Quindi alzate il gomito e se invece starnutite o tossite con la mano davanti, state poi con le mani a posto. Vedrà che tutto andrà a posto, per carità, per carità, per carità, ragioniere. Sì. L'ho preso forte. Questi giorni bisogna fare molta attenzione. Questi cambiamenti di temperatura. Scusi, potrebbe fare anche un po' d'attenzione, no? Scusi, tanto abbia pazienza. Scusi tanto, ci metti il fazzoletto davanti alla bocca e poi lo togli al momento che sta sulla bocca. Scusi. Mi prende qua. A me mi preso un occhio, scusi. Tanti nasi, tante storie. Raccontatemi la storia del vostro naso, come si comporta, che cosa lo irrita, che cosa gli piace. Ditemi se riconosce bene gli odori, se invece fa un po' di confusione, se prude, gocciola, si arrossa. Un altro dettaglio: la vostra voce ultimamente è cambiata? Vi capita che qualcuno vi chieda al telefono, ma sei raffreddata, quando invece il raffreddore non l'avete? Un dettaglio molto importante a cui ne aggiungiamo, dottor Franzetti? Certo, perché per esempio il fatto del prurito è un fatto che spesso scatena lo starnuto, ma che spesso è legato a altri fattori, mentre invece ci sono delle cose come il naso chiuso e gli odori che non si sentono, oppure anche a volte un senso di pesantezza sopra il naso, che possono slatentizzare poi nel tempo un raffreddore. Dottor Franzetti, ci sono anche delle piccole manovre. Quando il naso prude si sta per starnutire, tirando un po' la punta verso l'alto e schiacciandola, lo starnuto a volte va via. Come mai? Perché ci sono proprio delle stimolazioni che sono legate a un nervo, che è il nervo trigemino, che fa subentrare una stimolazione sensitiva che va a inibire l'arco riflesso dello starnuto. Quindi se non possiamo starnutire, potremmo proprio prendere la punta del naso, tirarlo un po' in alto e in su. Certo. E lo starnuto sparisce. Comunque, questa piccola appendice che ci dà tante preoccupazioni, ci mette tante volte in difficoltà, però sa darci anche grandi soddisfazioni. Pensiamo a tutti i sapori, gli odori che riesce a catturare. Ad ogni odore è associato, un lo sapore, sappiamo bene, certo, un sapore. E anche l'olfatto, questo senso così primitivo, è un po' il grimaldello, la porta d'accesso per la nostra memoria. In alcune età è un fattore di relazione importantissimo, soprattutto nei bambini e negli anziani. Allora, vogliamo trattare bene il nostro naso, prenderci cura di lui, soprattutto in questo periodo. È una stagione particolarmente difficile, ma per molti nasi non è solo l'inverno, un po' tutto l'anno, devono combattere con tutta una serie di disagi. Allora, affidiamo il nostro naso come organo respiratorio, ma anche come sede dell'olfatto, a un grande maestro. In linea con noi abbiamo Daniele Belloni di Yoga and Meditation Training. Ciao Daniele! Ciao Nicoletta, ciao a tutti gli ascoltatori. Non sono forse un grande maestro, anzi non lo sono di sicuro, ma qualcosina sul naso possiamo dire. Grazie Daniele, così miglioriamo il senso dell'olfatto, del gusto? Possiamo migliorarlo Sì. Assolutamente, utilizzando delle tecniche che lo yoga tramanda fin dall'antichità, sono tecniche definite di purificazione e hanno a che fare proprio con la pulizia nel profondo dei seni nasali, delle cavità nasali. Si possono utilizzare diversi metodi, si può utilizzare lo stesso respiro, quindi l'aria, per ottenere questa purificazione, e a questo punto avremo a questo livello delle tecniche di respirazione dinamiche con espulsione e espirazione forzata, ritmica, molto sostenuta, e si può anche utilizzare eventualmente tecniche più diciamo di pulizia profonda per mezzo dell'acqua. Ecco, facciamo una sorta di irrigazione, di lavaggio. Sì, si tratta proprio, come dicevi, di irrigazione nasale, nel senso che nello yoga fin dall'antichità si è utilizzata questa specie di, chiamiamola teiera, sì, che è un beccuccio. Nella teiera si è sempre messo, e si mette ancora oggi, chi pratica yoga conosce questa tecnica molto approfonditamente, dell'acqua calda, moderatamente calda, con del sale, quindi una soluzione fisiologica. Diciamo che nell'intera teiera un cucchiaino da tè di sale raso è più che sufficiente, al gusto deve risultare moderatamente salata, l'acqua moderatamente calda, e quindi si inserisce il beccuccio di questa teiera in una narice, poniamo che sia la narice destra, ci si inclina leggermente verso sinistra. Per la connessione che c'è fra una narice e l'altra, l'acqua tenderà a defluire dalla narice destra alla sinistra. Durante il processo si respira con la bocca, quindi si mantiene la bocca aperta. Alla fine di questa prima fase dell'operazione si espellono i residui d'acqua con respirazioni, con espirazioni forzate, ritmiche, eventualmente inclinando un poco il corpo in avanti. Dopodiché si ripete la stessa operazione inserendo il beccuccio di questa, chiamiamola così, teiera nella narice sinistra, questa volta inclinandoci a destra e favorendo quindi il deflusso dell'acqua dalla narice sinistra a quella destra. Di nuovo espulsione, diciamo, ritmica, forzata, generosa dei residui d'acqua alla fine di questa seconda operazione, e l'esercizio è completato e di sicuro porterà grandissimi benefici, soprattutto in questa stagione, come dicevi tu Nicoletta, come prevenzione di tutti quei malanni legati al freddo, prevenzione di raffreddori, prevenzione anche di sinusiti, allergie, quindi, perché attraverso questo deflusso di acqua calda e salina è possibile appunto eliminare tutte le impurità, i residui, gli allergeni, il mucco che ristagna. Che stende le ciglia, di cui oggi parliamo proprio con il dottor Franzetti, quindi una tecnica molto semplice, economica. Perché assolutamente, quasi costo zero. Quasi costo zero, utilissima. Sia nella fase acuta che come prevenzione. Vorrei sapere anche il parere del dottor Franzetti, che è un grande sostenitore del lavaggio nasale, perché tutte le volte che viene qua, o in un verso o nell'altro, il naso ce lo fa lavare. Dottor Franzetti. Ma direi che sono due osservazioni importanti da fare su quello detto. La prima è che allora l'irrigazione così descritta è una cosa che è ancora migliore che il lavaggio in sé. L'irrigazione può essere fatta con l'acqua tiepida, eccetera, con queste tecniche, può essere fatta in centri termali, può essere fatta in mille modi, ma l'irrigazione è proprio dal punto di vista preventivo ancora più salutare che la normale igiene nasale del lavaggio. Entrambe hanno una validità importante. La seconda cosa che è stata sottolineata è che spesso la questione della prevenzione, nel senso che noi con queste metodiche attiviamo un benessere del naso, e quindi spesso riusciamo ad evitare il fenomeno del raffreddore, che non dimentichiamo è sempre il termine di un acuto di un fatto trascurato prima. Di un fatto trascurato prima. Certo. Daniele, ci sono anche, tu accennavi anche delle tecniche respiratorie. Di una tecnica forzata. Una tecnica respiratoria che nello yoga chiamiamo Kapalabhati. In questo senso non utilizziamo l'acqua, ma proprio il respiro. E si tratta semplicemente, una volta che si è capito il meccanismo, di espellere l'aria con un'espirazione forzata in connessione con un'attivazione della muscolatura addominale. Quindi avremo la fase attiva sarà quella espiratoria, la fase passiva invece sarà legata all'inspirazione. ovviamente per la depressione che si crea nei polmoni in seguito a un'espirazione di questo genere, naturalmente rilassando l'aria entra. Quindi si tratta proprio di promuovere la fase di espulsione, quindi di purificazione. Quindi si tira dentro la pancia, in pratica? Diciamo che si parte. Per tradurre? Sì. Esatto, brava, da una buona respirazione diaframmatica nella quale dobbiamo sentire in modo profondo il movimento dell'area addominale con l'espirazione. Nella respirazione diaframmatica completa sentiamo proprio un rientro della parete addominale verso la colonna. Con l'inspirazione rilassiamo questo rientro, quindi è un'attivazione armonica e fluida della parete addominale, dei muscoli dell'addome, in modo da respirare correttamente. Nella tecnica di purificazione che ti descrivevo, il rientro della parete addominale è ritmico, vigoroso. Se vuoi te ne posso fare sentire alcune, diciamo, esecuzioni, in modo che hai un'idea e tutti gli ascoltatori possano avere un'idea di come questa tecnica possa funzionare. Mi piace, vai. Ecco, allora, una respirazione inizialmente, come ti dicevo, diaframmatica, fluida, continua, senza pause, in cui muoviamo armoniosamente la parete addominale, espirando attiviamo un poco e rientriamo, con moderazione, senza forzare, e inspirando lasciamo andare, sentiremo proprio come un'onda a livello del centro dell'ombelico. Dopo una decina di respirazioni così, saremo pronti per iniziare la nostra tecnica di purificazione, in questo modo. Come gli ascoltatori possono avere sentito, quel flusso forzato di aria è proprio determinato da questa attivazione che sto operando di rientro, di contrazione dei muscoli dell'addome in modo ritmico, dinamico, per far sì che l'espulsione, l'espirazione sia il più possibile efficace e sottolineata. È una tecnica semplice, una volta che si è padroneggiato il processo è veramente semplicissima e aiuta anche questa a mantenere il nostro naso pulito e pronto a respirare, a gustare i sensi e i piaceri della vita. Grazie Daniele Belloni per essere stato con noi. Ciao Daniele, grazie. Grazie a voi. Buona giornata. Ritorniamo allora al nostro naso, ecco, proviamo questa respirazione, soprattutto usiamo l'irrigazione, ma dottor Franzetti, il naso, anche quando non abbiamo magari il raffreddore, si tappa, a volte si tappa da una narice sola, a volte da entrambe, abbiamo la sensazione di una pesantezza, di una fascia proprio nella zona perioculare, sulla fronte in modo particolare, gli odori se ne vanno. Su Facebook, potete seguirci come sempre su Facebook e su Twitter, vi abbiamo invitato a scrivere, a descrivere i vostri starnuti, ne stanno uscendo delle belle, andate a leggere, scrivetevele o raccontateci all'800 24 00 24 se siete starnutatori rumorosi oppure se lo starnuto lo fate quasi in silenzio, soffocandolo. A proposito di starnuti, mi state scrivendo che lo starnuto va via anche facendo il solletico al palato con la lingua. E un ascoltatore, Duccio, mi ricorda che sembra anche a me fosse già riportato sul grande manuale delle giovani marmotte: solleticando il palato con la punta della lingua si blocca l'arrivo dello starnuto. Grazie a Duccio e agli ascoltatori che mi stanno scrivendo questo trucchetto per trattenere lo starnuto, che poi fa bene o fa male, dottore? Ma lo starnuto è sempre un fattore positivo per l'organismo, sempre va contenuto in qualche modo per non ledere le persone che ci sono intorno, però è sempre un fattore positivo. Però, fisiologico. A parte lo starnuto che ci impedisce di respirare bene con il naso, ci sono persone che, come dicevamo, il naso ce l'hanno quasi sempre chiuso, tanto che la voce diventa per l'appunto nasale, si avverte quella sensazione dolorosa di pesantezza tra naso, fronte, occhi. Se vi riconoscete, chiamate 800 24 00 24. Ariel, ascoltami. Il mondo degli umani è un pasticcio. La vita sotto il mare è meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Le alghe del tuo vicino ti sembrano più verdi, sai. Vorresti andare sulla terra, non sai che sbaglio fai. Se poi ti guardassi intorno turismo, vedresti che il nostro mare è pieno di meraviglie, che altro tu vuoi di più in fondo al mare. Non vengono dal mare anche se hanno un nome da molluschi. Certo. Cosa sono? I polipi. I polipi. Mannaggia, come facciamo a capire che abbiamo i polipi nel naso, oltre le famose ciglia? Allora, i polipi danno sostanzialmente tre sintomi che pian piano aumentano nel tempo, sono un po' altalenanti ma sono sempre simili. Sono sempre un'influenza sull'olfatto, gradatamente si perde l'olfatto per le cose prima più fini e poi anche per gli odori più forti. Il tipo di gocciolamento del naso cambia, nel senso che è come acqua. Sì. No, non è il muco del raffreddore, ma è come l'acqua che cola. E perché? Perché il polipo spessissimo è sostenuto da un meccanismo di tipo allergico, e quindi è la mucosa che si gonfia di acqua e quindi ogni tanto gocciola, un po' come un rubinetto. Esatto, ho il naso come, che sembra un rubinetto, come, eccolo lì. Esatto, come un rubinetto. E poi i polipi non danno starnuti. Non danno starnuti, no, quindi se, se noi starnutiamo è perché c'è, subentra un altro fattore. Io invece ne ho un altro, starnutisco ed è anche un altro forma di raffreddore, ne parleremo, starnutisco al mattino e quando cambia la temperatura. Raffica di starnuti, ma andiamo a Mariano che ci chiama dall'Aquila. Buongiorno Mariano, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Lei è uno starnutatore rumoroso o un po'... Rumoroso, devo dire. Di quelli che vanno proprio quelli che fanno proprio rumore, ma credo che sia più una questione di, perché è soggetto al fatto se siamo fra amici che ci viene da ridere più che altro, no? Però tendenzialmente rumoroso. Mi racconti, Mariano. La mia curiosità era un'altra, perché sentivo prima del fatto dei pruriti al naso. Sì. Allora, io da bambino mi hanno tolto gli adenoidi, se non ricordo male, e ho notato il fatto del prurito interno al naso, all'altezza della gobbetta, non so se riesco a spiegarmi. Benissimo. Molto spesso sento questo prurito e io mi gratto da fuori scuotendo il naso. Però ho notato che delle volte questo prurito mi viene spesso, ma non indipendentemente dalle stagioni. Credo che sia un fatto allergico. Soldi non ne arrivano, Mariano? Sai che si dice che quando prude il naso arrivano i soldi, forse invece il dottor... No, soldi non li vediamo, il prurito Mariano, c'è, il dottor Franzetti. Buongiorno, lei non ha mai preso dei colpi sul naso e non porta gli occhiali? Porto gli occhiali da riposo, però... Ma li tiene molto sul naso gli occhiali? No, solo se guardo la TV E non ha mai preso traumi sul naso, colpi sul naso? Beh, dai, che io ricordi mai. A questa gobbetta pruriginosa nell'interno, che cosa può essere, dottor Franzetti? Quale causa può esserci dietro il prurito nasale? No, il prurito è un sintomo molto interessante, perché il prurito in sé, in astratto, può derivare da due cose: o da un fattore periferico che c'entra col naso o da qualcosa che non c'entra assolutamente col naso. Io ho questo aneddoto che racconto sempre sul prurito del naso, per cui dico sempre ai pazienti che mi sottopongono questo problema: potrebbe essere che il naso non abbia niente. E loro? No, perché io ho seguito questa simpaticissima commessa di un negozio importante di Milano che aveva prurito al naso. Sono arrivato in maniera anche importante, sono arrivato anche ad operarla al naso senza ottenere nessun risultato, perché il problema non era nasale ma era un problema legato proprio a un fattore di percezione centrale, cioè non una malattia importante, certo, ma proprio psicologica centrale, per cui uno somatizza un determinato fastidio e lo esaspera personalmente. E quindi bisogna valutare sicuramente che non ci sia un fattore allergico, come diceva Mariano, oppure che non ci siano stati dei traumi, che non ci siano state delle ossificazioni anomale del naso. Cioè ci sono dei fattori locali nel naso che indubbiamente vanno affrontati e quelli vengono tutti risolti. Ma se non c'è niente, bisogna cercare di farsi un po' di training autogeno e di togliersi il fastidio mentalmente. Dottor Franzetti, cosa c'entrano le arachidi, i semilosi, ma anche il salmone, le ostriche, con i polipi? Perché sono dei fattori allergenizzanti. Allora, chi ha i polipi a che cosa deve stare attento? C'è anche un importante contributo della dieta, forse sì. a provocare questo problema? No, chi ha la poliposi non ce l'ha perché mangia le arachidi, però sicuramente se uno ha una poliposi e quindi ha un meccanismo allergico che li genera, da una dieta scorretta ne trae un aumento del volume del polipo e quindi un aumento del fastidio, mentre invece da una dieta corretta e equilibrata allora ne trae un vantaggio, nel senso che il polipo tende a ridursi. Marco da Mantova e Giorgio da Padova, buongiorno Marco, benvenuto. Buongiorno, complimenti per la trasmissione come al solito. Grazie. Una curiosità, perché quando si guarda il cielo si viene da sternutire, mentre quando sei al chiuso non succede? C'è una ragione. Vede che lei che fa sempre i quizzettoni. Adesso Marco ne ha fatto uno bello. No, c'è una ragione, che è una ragione molto curiosa, che quando noi guardiamo in alto tendenzialmente inspiriamo e apriamo le cosiddette alette nel naso. Sì. E questo aumenta la quantità di aria e quindi di possibili allergeni o irritanti che ci entrano nel naso. Se noi abbiamo una mucosa nasale che normalmente è protetta o comunque riceve una quantità inferiore di aria, in questa manovra noi aumentiamo lo stimolo della mucosa nasale e quindi, se è particolarmente sensibile, possiamo scatenare lo starnuto. Promosso, dottor Franzetti, andiamo a Giorgio da Padova. Buongiorno, Giorgio. No, buongiorno, e volevo portare la mia testimonianza. Io ho 61 anni. Sì? Da tempo immemorabile, diciamo da circa una trentina d'anni, e ho cominciato ad avere a periodi degli starnuti continui. Ho fatto le prove allergiche, ho fatto visite agli otorino, ho fatto qualsiasi cosa, ho imparato a fare tutti i lavaggi che voi, diciamo, avete descritto, con acqua bollita, con sale, con acque termali, tutto, e purtroppo finora nessuno mi ha mai, diciamo, diagnosticato niente. Io soffro di naso chiuso a periodi, delle volte anche la notte, anche con apnee notturne. Sì, ho fatto la polisonografia, ho fatto tutto. E la prima volta che ho avuto una diagnosi, diciamo, che potrebbe essere la più attendibile, è stata una circa 4 settimane fa, da un allergologo che mi ha diagnosticato una rinite persistente. Non so se sapete che cos'è Nares. Lo sappiamo, perché ha dei sintomi molto particolari. C'è stata una giornata dedicata proprio al naso ribelle, Giorgio? Sì, infatti io quella me la sono persa purtroppo. E allora Giorgio, rimanga con noi, perché tra poco ne parleremo. Adesso è tempo di andare a sentire che cosa sta succedendo sulle strade e sulle autostrade. C'è un raffreddore che non è un raffreddore, ma gli assomiglia molto. Diamo alcuni indizi, alcuni li ha già dati il nostro amico al telefono. Ad esempio, appena si mettono giù i piedi dal letto inizia una raffica di starnuti. Quando cambiamo ambiente, dal caldo al freddo, di notte il naso si tappa. 800 24 00 24, ma prima di occuparci di questo raffreddore non raffreddore, insomma di questo naso che in occasione di una giornata è stato definito a ribelle, ci faremo dare una mano, è il caso di dirlo, dal professor Stefano Tirelli, docente di tecniche complementari all'Università Cattolica. Buongiorno professore. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Lo accompagniamo con noi a sentire le informazioni sul traffico e poi il professor Tirelli ci darà una mano, nel senso che ci insegnerà ad utilizzare le nostre mani per fare delle digitopressioni e trovare sollievo in tutte quelle situazioni in cui la testa si fa pesante, il naso è chiuso, la fronte diventa dolente. Professor Tirelli, quando la testa duole e il naso è tappato, non abbiamo la possibilità di fare un bel suffumigio liberatorio, possiamo aiutarci con delle semplici pressioni, autopressioni. Sì, dai, un aiuto può essere dato da queste pressioni che definiamo shatsu, quindi digitopressione, in particolare su delle zone ai lati delle narici. È un meridiano, quello che andremo a stimolare, che si chiama grosso intestino, e che non è un caso che si chiami così, proprio perché laddove ci sono situazioni di eccessi di muco, queste situazioni si possono relazionare anche con delle stasi proprio delle funzioni intestinali. Abbiamo un punto quindi da stimolare ai lati delle narici con il nostro dito indice tra lo zigomo e la narice. Possiamo frizionare molto velocemente questo punto che generalmente è molto fastidioso. Potete anche provarlo da casa, sì, se volete. Lo sta provando anche il dottor Franzetti. Eccolo. Benissimo. Tra l'altro ogni tanto lo si potrebbe anche aiutare nello sblocco, in questa situazione di sblocco, col classico, come dire, balsamo di tigre con una fumata un pochino forte. Sì. Questo punto risulta veramente efficace nel momento in cui lo frizioniamo per almeno 30 secondi. Possiamo farlo sia con le due dita ai lati simultaneamente, oppure prima su uno e poi sull'altro lato. Vi garantisco che è un punto che dà una sensazione di benessere, di respirazione molto molto molto profonda. Grazie professor Tirelli. Dottor Franzetti, lei lo sapeva questo punto? Io li chiamo i punti magici, quelli che ci suggerisce il professor Tirelli, che tornerà domani a Mangia con me, vero prof? Ci sentiamo domani per il programma e buona energia a tutti. Grazie, grazie al professor Tirelli. Lei lo sapeva? Beh, la medicina ha delle ragioni fisiologiche di questo, non è una magia, Nel senso che c'è una stimolazione di un'emergenza del nervo trigemino sensitivo, di una stimolazione muscolare, che sono i muscoli che muovono le alari nasali, e quindi le alette, si stimolano dei fenomeni fisiologici precisi. Questo vuol dire che tutti i consigli che abbiamo dato oggi per prenderci cura del nostro naso, che vanno dall'irrigazione, dalla respirazione un po' controllata e profonda, che la diaframmatica è fondamentale, non solo per il naso ma per la voce e per altre cose. La Kapalabhati, no? che ci ha raccontato il nostro maestro di yoga, quando e anche il punto che ci ha insegnato e fatto individuare il professor Tirelli, sono dei consigli che vanno bene per tutti i nasi. Certo. Vero, come prevenzione, ma vogliamo anche occuparci di questi nasi ribelli. Il raffreddore che non è un raffreddore è una forma di rinite particolare che non dipende né dal clima né dai pollini, si chiama naresma. A identificarla sono stati i ricercatori italiani coordinati da Matteo Gelardi, responsabile dell'unità operativa di rinologia presso il Policlinico di Bari, che è in linea con noi. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Questo naso ribelle l'abbiamo già descritto insieme anche al dottor Franzetti. La notte si tappa e non ci lascia dormire, anzi non lascia dormire anche la persona che dorme accanto a noi, perché si russa e si hanno anche delle apnee notturne. Ci svegliamo, raffica di starnuti, andiamo da un posto all'altro, raffica di starnuti, non è allergia. Che cosa può essere? Voi con il naso ribelle avete un esame che vi permette di diagnosticare questo tipo di rinite. Che cos'è? Certamente è una rinite che dà grandi fastidi. La qualità della vita di questi pazienti è molto difficile, sia di giorno che di notte. E allora abbiamo una rinite cronica che sembra molto una rinite allergica, ma la caratteristica di queste riniti è che non hanno una stagionalità, sono sempre presenti. I pazienti pensano di essere allergici e la caratteristica di questi pazienti è quella di avere un dossier, sì, fatto da tanti esami, test, RAST, tutte quelle indagini che si fanno per scoprire un'allergia che mai verrà fuori. Perché allergia non è, ma professore, sì. C'è invece un esame molto semplice, non invasivo, che permette di fare diagnosi e quindi immagino di trovare... Si chiama citologia nasale, che è un semplicissimo esame che prevede la raccolta di un po' di muco dal naso, viene strisciato su un vetrino, quindi un esame non cruento, si può fare a tutte le età, non è prevista alcuna anestesia. E dalla tipologia delle cellule che si vedono all'interno della mucosa nasale, quindi al microscopio, si fa la diagnosi e quindi si riesce anche a dare una terapia. Il naso ribelle è stato inchiodato. Grazie al professor Matteo Gelardi per essere stato con noi. Abbiamo Mirella dalla provincia di Lucca. Buongiorno Mirella, benvenuta. Buongiorno. Ciao, la nostra amica di sempre. Oh, non grazie. Non ti abbandonare. No, speriamo di no, Mirella, non abbandonatevi neanche voi. Teniamoci, come diceva Gianni Morandi, vicini vicini. Mirella, mi dicono che sei molto preparata sulle ciglia. Allora, vai, dove sono queste ciglia? Sì, sono nelle tube e danno un aiutino, anzi, un aiutone a noi donne. Esatto. Brava Mirella! Brava Mirella. Ti posso dare, ora io ho vinto un libro, lo so. Certo, la guida al benessere, con tanto di dedica per te. Bene, grazie. Sai che io porto buono. Io ringrazio tanto quel dottore perché mi ha fatto scoprire che mio marito soffre di ribelle, via, il naso ribelle. Sì, il naso ribelle. Certo, farò senz'altro quell'esame, perché ha proprio quei sintomi. Ha proprio questi sintomi, vedi? Sono quelli, ecco. Sono quelli. Beh, ha solamente il naso di ribelle il marito, teniamolo. Certo, dai. È ribelle in tutti, guarda, è ribelle in tutto, e anche nel naso. E anche nel naso. Grazie a Mirella, dalla provincia di Lucca, che le faremo arrivare a casa, guida al benessere. Abbiamo, non c'è tempo per Samuele da Padova. Samuele, la saluto in diretta, grazie per aver partecipato, noi ci trasferiamo su Facebook. Dottor Franzetti, grazie per essere venuto. Grazie, un saluto a tutti. Grazie a Matteo Comes in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione. Continuate a seguirci, io vi aspetto domani.